Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. Nella filosofia personale di Hermann, la sopravvivenza stessa si fondava sull'astuzia. Dai microbi all'uomo, la vita prevaleva di generazione in generazione, sottraendosi di soppiatto ai gelosi poteri della distruzione? Gli animali avevano accettato la precarietà della loro esistenza e la necessità della fuga e della furtività. Soltanto l'uomo cercava la certezza e riusciva invece a causare la propria caduta. L'ebreo era sempre riuscito ad aprirsi di contrabbando una strada attraverso il delitto e la pazzia. Era entrato di nascosto a Canaan e in Egitto. Abramo aveva finto che Sara fosse sua sorella. Gli interi 2000 anni di esilio, incominciati con Alessandria, con Babilonia, con Roma e sfociati nei ghetti di Varsavia, di Lodz, di Vilna, erano stati una sola grande azione di contrabbando. La Bibbia, il Talmud e i commentari istruiscono l'ebreo per quanto concerne un'unica strategia: fuggire il male, sottrarsi al pericolo, evitare il più possibile gli irosi poteri dell'universo. L'ebreo non ha mai guardato con sospetto il disertore che si rifugiava in una cantina o in una soffitta mentre eserciti si scontravano fuori nelle vie. Hermann, l'ebreo moderno, aveva portato ancora più avanti questo principio. Non poteva neppure più far conto sulla fede nella Torah. Stava ingannando non soltanto Abimelech, ma anche Sara e Agar. Hermann non aveva stretto un patto con Dio e non sapeva che farsi di lui. Non voleva che il suo seme si moltiplicasse come le sabbie lungo il mare. Tutta la sua esistenza costituiva un gioco di furtività. Le prediche che aveva scritto per Rabbi Lampert, i libri che vendeva ai rabbini e ai ragazzi della yeshiva, l'aver accettato la conversione di Yadviga al giudaesimo e i favori di Tamara. Hermann sbadigliò, alzò il bicchiere del vino e i 10 flagelli toccati al faraone. Tamara lodò le polpette di Yadviga. Un pesce del fiume Hudson o di qualche lago aveva pagato con la vita affinché Hermann, Tamara e Yadviga potessero ricordare i miracoli dell'esodo dall'Egitto. Un pollastro aveva donato il proprio collo alla commemorazione del sacrificio pasquale. In Germania e anche in America venivano organizzati partiti neonazisti. In nome di Lenin e di Stalin, i comunisti avevano torturato anziani maestri e annientato interi villaggi in Cina e in Corea in nome della rivoluzione culturale. Nelle taverne di Monaco, assassini che si erano trastullati con crani di fanciulli bevevano birra da alti boccali e cantavano inni in chiesa. A Mosca avevano liquidato tutti gli scrittori ebrei, eppure i comunisti ebrei di New York, di Parigi e di Buenos Aires lodavano gli assassini e insultavano i capi di ieri. La verità? Non in quella giungla, in quel lembo di terra poggiante in equilibrio precario su ardente lava. Dio? Il Dio di chi? Degli ebrei? Del faraone? Sia Hermann che Yadviga esortarono Tamara a trattenersi lì quella notte, ma lei volle a tutti i costi tornarsene a casa, promettendo di tornare la mattina dopo per aiutare a preparare il secondo seder. Lei e Yadviga lavarono i piatti, poi Tamara augurò a entrambi buona festa e se ne andò. Hermann entrò nella camera da letto, si distese. Non voleva pensare a Masha, eppure tutti i suoi pensieri continuavano ad andare a lei. Che cosa stava facendo? Pensava mai a lui? Il telefono squillò. Hermann corse all'apparecchio sperando di udire la voce di Masha, timoroso che lei potesse cambiare idea. Inciampò, per poco non cadde e urlò nel ricevitore un trafelato: «Pronto?» Non rispose nessuno. «Pronto? Pronto?» Era un'abitudine di Masha telefonare e non dire una parola. Forse aveva voluto soltanto sentire la sua voce. «Non fare la stupida, di qualcosa!» esclamò. Ancora nessuna risposta. «Sei stata tu ad andartene, non io!» si sorprese a dire. Silenzio. Aspettò un momento e poi soggiunse: «Non puoi rendermi più infelice di quanto già sono». Passarono settimane. Herman si era addormentato e aveva sognato Masha. Suonò il telefono, lui gettò indietro le coperte e saltò giù dal letto. Jadwiga continuava a russare. Corse all'ingresso, urtando qualcosa con il ginocchio al buio, sollevò il ricevitore e gridò: «Pronto!» Ma non rispose nessuno. «Se non rispondi, riattacco», disse. «Aspetta!» Era la voce di Masha. Sembrava soffocata e si sarebbe detto che inghiottisse le parole. Dopo qualche tempo, il suo modo di esprimersi divenne più chiaro. «Mi trovo a Coney Island», disse. «Che cosa stai facendo a Coney Island? Dove sei?» «Al Manhattan Beach Hotel. Ho cercato di telefonarti tutta la sera. Dove eri?» «Ho deciso di tentare ancora una volta, ma poi mi sono addormentata». «Che cosa stai facendo al Manhattan Beach Hotel? Sei sola?» «Sola. Sono tornata da te». «Dov'è tua madre?» «Nel convalescenziario del New Jersey». «Non capisco». «Ho preso accordi perché restasse lì. Il rabbino le passerà uno stipendio o qualcosa del genere. Gli ho detto tutto, che non potevo vivere senza di te e che mia madre era il solo ostacolo. Ha tentato di dissuadermi, ma la logica non serve». «Lo sai che Jadwiga sta per partorire?» «Penserà lui anche a questo. È un grand'uomo, sebbene sia matto. Ha più cuore in una delle unghie di quanto ne abbia tu in tutto il tuo essere. Come vorrei poterlo amare, ma non posso. Se anche soltanto mi sfiora, rabbrividisco di disgusto. Ti parlerà lui stesso. Vuole che tu finisca il lavoro iniziato per lui. Mi ama e divorzierebbe da sua moglie se accettassi di sposarlo, ma si rende conto dei miei sentimenti. Non avrei mai creduto che avesse tanto cuore». Herman aspettò un momento prima di parlare. «Avresti potuto dirmi tutte queste cose dal New Jersey», mormorò con un tremito nella voce. «Se non mi vuoi, non ti imporrò la mia presenza. Giuro che, se mi respingi questa volta, non ti guarderò più in faccia. Tutto è arrivato al punto culminante. Voglio sapere, una volta per tutte, sì o no?» «Hai rinunciato all'impiego?» «Ho rinunciato a tutto. Ho riempito una valigia e sono tornata da te». «Che cosa sarà del tuo appartamento? Hai rinunciato anche a quello?» «Liquideremo ogni cosa. Non voglio restare a New York. Rabbi Lampert mi ha scritto delle referenze meravigliose e posso trovare un impiego ovunque. La gente nel convalescenziario era pazza di me. Ho riportato molte persone alla vita, letteralmente. Il rabbino ha un convalescenziario anche in Florida e se vorrò lavorare per lui laggiù potrò cominciare subito con uno stipendio di $100 alla settimana. E se per caso la Florida non ti piacesse, ha una clinica anche in California. Potrai lavorare anche tu per lui. È buono come un angelo del paradiso». «Masha, non posso lasciare Jadwiga in questo momento. Le doglie potrebbero cominciare da un giorno all'altro». «E quando avrà partorito ci saranno altre ragioni». «Ho deciso, Herman. Domani parto in aereo per la California e non sentirai mai più parlare di me, lo giuro, sulle ossa di mio padre». «Aspetta un momento». «Perché? Per darti il tempo di trovare altri pretesti? Ti concedo un'ora per fare le valigie e venire qui. Rabbi Lampert pagherà le spese in ospedale alla tua contadina e tutto il resto. È il presidente di non so quale ospedale, ne ho dimenticato il nome. Non gli ho nascosto niente. È rimasto un po' scosso, ma capisce. Potrà essere volgare, però è ugualmente un santo. O per caso ti sei trovato una nuova amante?» «Non ho una nuova amante, ma ho una libreria». «Cosa? Hai un negozio?» Herman le riferì brevemente le circostanze. «Ti sei rimesso con la tua Tamara?» «Assolutamente no». «Ah, ma che è lei?» «Presentala al rabbino. Due angeli possono generare un nuovo Dio. Noi due siamo entrambi demoni e possiamo soltanto farci del male a vicenda». «Non posso mettermi a fare le valigie adesso nel cuore della notte». «Non fare nessuna valigia. Che cosa possiedi del resto? Il rabbino mi ha fatto un prestito o mi ha versato un anticipo a seconda di quello che farò. Abbandona tutto, come quello schiavo della Bibbia». «Quale schiavo? Questo ucciderà Jadwiga. È una contadina robusta. Troverà qualcun altro e sarà felice. Può far adottare il bambino da qualcuno. Il rabbino ha anche un'agenzia di questo genere. Ha le mani in pasta in tutto. Se vuoi avremo un bambino, ma ora basta con le chiacchiere. Se Abramo poté sacrificare Isacco, tu puoi sacrificare Esaù. Forse in seguito potremo prendere con noi il bambino di Jadviga. Qual è la tua risposta? Che cosa vuoi che faccia, esattamente? Vestiti e vieni qui. Cose di questo genere accadono ogni giorno. Ho paura di Dio. Se hai paura, rimani con lei. Buonanotte per sempre. Aspetta, Masha, aspetta! Sì o no? Sì. Ora ti do il numero della mia camera. Herman riattaccò. Ascoltò attentamente. Jadviga stava ancora russando. Rimase accanto al telefono. Non si era reso conto dell'intensità con la quale aveva desiderato Masha. Rimase lì, nell'oscurità, con la sottomissione silenziosa di chi ha rinunciato alla propria volontà. Passò qualche tempo prima che riuscisse ad agire. Ricordò di avere una lampadina tascabile in qualche cassetto. La trovò e illuminò il telefono per poter fare una telefonata. Doveva parlare con Tamara. Formò il numero di Reb Abraham Nissen Yaroslaver. L'altro apparecchio suonò per minuti e minuti, ma infine udì la voce sonnacchiosa di Tamara. «Tamara, scusami, sono Herman.» «Dimmi, Herman, che cosa c'è?» «Lascio Jadviga, me ne vado con Masha.» Tamara non parlò per qualche momento. «Ti rendi conto di quello che stai facendo?» «Me ne rendo conto e lo faccio.» «Una donna che esige simili sacrifici non li merita. Non credevo che avresti potuto perdere così completamente il dominio di te stesso.» «Così stanno le cose, Tamara.» «E il negozio?» «Lascio tutto nelle tue mani. Il rabbino per il quale lavoravo un tempo vuole fare qualcosa per Jadviga. Ti darò il suo indirizzo e il suo numero di telefono. Mettiti in contatto con lui.» «Aspetta, prendo una matita e un foglio di carta.» Regnò il silenzio mentre lui aspettava con il ricevitore accostato all'orecchio. Jadviga aveva un vaso di lui da fare. «Chissà che ore sono», pensò. Di solito aveva un acuto senso del tempo. Spesso riusciva a indovinare l'ora esatta con l'approssimazione di un minuto, ma ora sembrava aver perduto quella capacità. Implorò quel Dio stesso contro il quale aveva peccato, chiedendogli di impedire a Jadviga di destarsi. Tamara tornò al telefono. «Qual è il numero?» Herman le diede il nome e il numero di telefono di Rabbi Lampert. «Non potresti almeno aspettare che abbia avuto il bambino?» «Non posso aspettare, Tamara.» «Herman, le chiavi del negozio le hai tu. Puoi aprirlo domani mattina. Io sarò là alle 10.» «D'accordo.» «Bene, ti sei preparato il letto e dovrai dormirci», disse Tamara. Poi riattaccò. Lui rimase al buio, ascoltando il proprio io interiore. Poi andò a guardare l'orologio in cucina. Lo stupì constatare che erano soltanto le 2:15. Non aveva dormito più di un'ora, eppure gli sembrava di aver riposato per tutta la notte. Cercò una valigia nella quale mettere camicie e biancheria. Aprì con cautela un cassetto, ne tolse qualche camicia, un po' di biancheria e alcuni pigiami. Intuì che Jadviga era sveglia e si limitava a fingere di dormire. Chi poteva saperlo? Non era possibile che volesse liberarsi di lui? Forse si era stancata dell'intera faccenda, ma poteva anche darsi che aspettasse di fargli una scenata all'ultimo momento. Mentre ficcava i vestiti nella valigia, ricordò il manoscritto del rabbino. Dov'era? Udì Jadviga tirarsi su. «Che cosa c'è?» domandò lei. «Devo andare in un posto.» «Dove?» «Oh, non fa niente.» Jadviga si ridistese. Lui udì il letto cigolare. Si vestì al buio, sudando sebbene avesse freddo. Spiccioli gli caddero da una tasca dei calzoni. Continuava a urtare contro i mobili. Il telefono squillò e lui si affrettò ad andare a rispondere. Era di nuovo Masha. «Vieni o no?» «Sì, non mi hai lasciato altra scelta.» Herman temeva che da un momento all'altro Jadviga potesse cambiare idea e tentare con la forza di impedirgli di andarsene. Invece giaceva silenziosa. Era rimasta sveglia durante tutti i suoi preparativi. Come mai non diceva niente? Per la prima volta da quando l'aveva conosciuta si comportava in modo imprevedibile. Era come se avesse partecipato a un complotto contro di lui e sapesse qualcosa di cui lui era all'oscuro. O O forse era davvero arrivata allo stadio ultimo della rassegnazione. Si trattava di un enigma che lo faceva sentire a disagio. Lei avrebbe potuto ancora balzargli addosso con un coltello all'ultimo momento. Prima di uscire, tornò nella camera da letto e disse: «Me ne vado adesso». Lei non rispose. Avrebbe voluto accostare la porta senza fare rumore, ma si chiuse con un tonfo. Discese le scale silenziosamente per non svegliare i vicini, attraversò la Mermaid Avenue e si incamminò lungo la Surf Avenue. Com'era silenziosa e buia Coney Island nelle prime ore del mattino. Vide tutti i baracconi chiusi, con le luci spente. Il viale si stendeva dinanzi a lui, deserto come una strada di campagna. Udiva lo scroscio delle onde al di là della Boardwalk. L'aria sapeva di pesce e di altre cose marine. Riuscì a distinguere alcune stelle nel cielo. Scorse un tassì, lo chiamò. Non possedeva altro che $10. Abbassò il cristallo di un finestrino del tassì per eliminare la puzza di sigaretta. Soffiava una brezza, ma alla fronte gli rimase madida. Respirò una lunga boccata d'aria. Nonostante la frescura notturna, l'aria contenente già la promessa di una giornata calda, gli balenò nella mente la riflessione che queste dovevano essere le sensazioni provate da un assassino sul punto di uccidere qualcuno. «È la mia nemica», mormorò, pensando a Masha. Lo pervadeva la sensazione misteriosa di essere già passato attraverso quell'evento, in altri tempi. Ma quando? Poteva mai essere che lo avesse sognato? Sentiva una gran sete o si trattava del desiderio di Masha? Il tassì si fermò davanti al Manhattan Beach Hotel. Herman temeva che l'autista non avesse il resto di $10, ma l'uomo silenziosamente contò il denaro. Nel vestibolo regnava il silenzio. Il portiere notturno era appisolato dietro il banco e aveva alle spalle le caselle delle chiavi. Herman temette che l'inserviente dell'ascensore gli domandasse dove stesse andando a quell'ora, ma l'uomo lo portò al piano richiesto senza dire una parola. Herman trovò ben presto la camera, bussò alla porta e Masha aprì immediatamente. Indossava un negligé e un paio di pantofole. La sola luce era quella dei lampioni stradali. Caddero l'uno nelle braccia dell'altro e si strinsero tacendo, allacciati in un torvo silenzio. Il sole si levò ed Herman quasi non se ne accorse. Masha si strappò a lui e andò ad abbassare le persiane. Si erano addormentati senza quasi aver pronunciato una parola. Herman dormì profondamente e si svegliò in preda a un rinnovato desiderio e a un timore collegato a qualche sogno dimenticato. Le sole cose che riuscisse a ricordare erano disordine, urla e qualcosa di beffardo. Ma anche queste reminiscenze confuse ben presto si dileguarono. Masha aprì gli occhi. «Che ore sono?» domandò e si riaddormentò. La svegliò per spiegarle che doveva trovarsi alla libreria alle 10. Andarono in bagno a lavarsi. Masha prese a parlare. «La prima cosa che dobbiamo fare è andare a casa mia. Ho ancora alcune cose là e devo chiudere l'appartamento. Mia madre non ci tornerà mai più». «Possono correre giorni». «No, poche ore. Non possiamo restare qui più a lungo». Sebbene si fosse appena saziato con il corpo di lei, non riusciva a capire come avesse potuto sopportare una così lunga separazione. In quelle settimane Masha era diventata più piena, sembrava ringiovanita. «Ha fatto storia la tua contadina?» gli domandò. No, non ha detto una parola. Si vestirono rapidamente e Masha pagò il conto dell'albergo. Si diressero alla stazione della sotterranea di Sheepshead Bay. La baia era illuminata dal sole e piena di imbarcazioni, molte delle quali appena rientrate da puntate in mare aperto all'alba. Pesci che poche ore prima avevano nuotato nell'acqua giacevano adesso sui ponti delle barche con gli occhi vitrei, la bocca lacerata, le squame insanguinate. I pescatori, ricchi dilettanti, li stavano pesando e si vantavano delle loro prede. Tutte le volte in cui Herman aveva assistito al massacro di un animale o di un pesce, era sempre stato assalito dalla stessa riflessione. Nel loro comportamento con le creature viventi, tutti gli uomini dimostravano di essere nazisti. La presunzione con la quale l'uomo faceva con le altre specie quel che gli piaceva era una esemplificazione delle teorie razziste più estremistiche, il principio secondo il quale la forza è diritto. Herman aveva ripetutamente promesso a se stesso di diventare vegetariano, ma Jadwiga non voleva saperne. Avevano sofferto abbastanza la fame nel villaggio e poi nel campo profughi. Non erano venuti nella ricca America per patire di nuovo. Le vicine le avevano insegnato che le macellazioni rituali erano le radici del giudaismo. La gallina acquistava meriti, venendo portata a colui che la uccideva, rispettando il rito e recitando una benedizione prima di tagliarle la gola. Herman e Masha entrarono in un ristorante per fare colazione. Lui tornò a spiegarle che non poteva andare direttamente al Bronx, dove doveva parlare con Tamara e consegnarle le chiavi del negozio. Masha lo ascoltò insospettita. «Riuscirà a dissuaderti. Allora vieni con me, le consegnerò le chiavi e poi potremo andare a casa insieme». «Non mi rimane un briciolo di energia. Le settimane all'istituto sono state tutte un lungo inferno. Ogni giorno mia madre si ostinava a dire che voleva tornare nel Bronx, sebbene avesse una comoda camera, infermiere, un medico e tutto ciò che una persona malata può desiderare. C'era anche una sinagoga dove pregavano uomini e donne. Il rabbino, ogni volta che veniva a farci visita, le portava un dono. Non si sarebbe potuta trovare meglio in paradiso, ma non la finiva mai di accusarmi d'averla rinchiusa in un ospizio per vecchi. Le altre persone anziane si resero conto ben presto che non c'era modo di renderla felice. Avevano un giardino dove tutti si mettevano a sedere per leggere i giornali o per giocare a carte, ma lei si chiudeva a chiave in camera sua. I vecchi mi compativano. Quello che ti ho detto del rabbino è la verità. Mi propose di abbandonare sua moglie per me. Dovevo soltanto dire una parola. Quando furono saliti sul treno della sotterranea, Masha divenne silenziosa. Sedette e tenne gli occhi chiusi. Quando Herman le rivolgeva la parola, trasaliva come se lui l'avesse destata dal sonno. Il suo viso, quel mattino così pieno e giovanile, era diventato nuovamente tirato. Herman notò un capello bianco sulla sua testa. Masha aveva finalmente portato il loro dramma al momento culminante. Con Masha le cose diventavano sempre contorte, sfrenate e teatrali. Herman seguitò a consultare l'orologio. Si sarebbe dovuto incontrare con Tamara nella libreria alle 10, ma erano già le 10:20 e il treno si trovava ancora lontano dalla sua fermata. Finalmente si fermò in Canal Street e lui balzò in piedi, promise a Masha di telefonarle e di raggiungerla nel Bronx non appena gli fosse stato possibile. Corse su per le scale, due gradini alla volta, si precipitò al negozio, ma Tamara non c'era. Doveva essere tornata a casa. Aprì, entrò per telefonarle e dirle che era arrivato, formò il numero, ma non rispose nessuno. Si disse che nel frattempo Masha doveva essere arrivata a casa e telefonò a lei. La senza che nessuno venisse a rispondere anche là. Ritelefonò ed era sul punto di riattaccare quando sentì la voce di Masha. Stava gridando e piangendo al contempo e a tutta prima lui non riuscì a capire quello che diceva. Poi la sentì gemere. «Sono stata derubata! Hanno portato via tutta la nostra roba, sono rimaste soltanto le nude pareti!» «Quando è successo?» «Ma chi lo sa? Oddio, oddio, perché non mi hanno cremata come tutti gli altri ebrei?» E scoppiò in un pianto isterico. «Hai chiamato la polizia?» «Ma che cosa può fare la polizia? Sono ladri anche loro!» Masha riattaccò. A Herman parve di continuare a sentirne il pianto.